Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera torniamo su una vicenda che gli ascoltatori di Mr. Kilowatt conoscono bene, la vicenda di Rossi e dell'ICAT. Ricordo a tutti che parliamo di una sorta di piccola caldaia che, secondo lo stesso Rossi, produrrebbe energia per mezzo di una cosiddetta reazione nucleare a bassa energia, che poi è il nome tecnico della fusione fredda. Rossi, che ha sviluppato questo apparato a partire dagli studi del fisico Sergio Focardi, professore benemerito dell'Università di Bologna, ha tenuto due dimostrazioni pubbliche, la prima a gennaio e la seconda l'8 ottobre. Nessuna delle due dimostrazioni ha del tutto scacciato i dubbi sull'autenticità del ritrovato di Rossi, ma soprattutto la seconda è apparsa piuttosto convincente. Abbastanza quantomeno da generare l'interesse di vari centri di ricerca, soggetti industriali e, da quello che si è potuto capire, anche soggetti militari. C'è un'altra cosa importante da ricordare di questa vicenda, la parentesi greca, chiamiamola così, che cade tra il primo e il secondo test. A giugno, infatti, ad Atene era stata lanciata una società, la Defkalion, con soci Rossi e un manipolo di finanziatori greci, quasi tutti anonimi. Scopo della società era la commercializzazione di Hyperion, una caldaia commerciale basata sul progetto originario di Rossi. Il contratto però è stato rescisso unilateralmente da Rossi ad agosto, a quanto pare per il mancato rispetto da parte dei greci di alcune clausole economiche. Un po' tutti a quel punto abbiamo pensato che fosse finita. Invece Rossi ha tirato dritto, ha organizzato la seconda prova pubblica e ve l'abbiamo raccontata dettagliatamente, e soprattutto ha realizzato il test successivo, quello del reattore da 1 megawatt, più o meno quanto consuma un grande complesso, diciamo, condominiale, un reattore costituito da un container con installati all'interno alcune decine di CAT che lavorano in parallelo. Il test va puntualmente in scena il 28 ottobre ed è da qui che vogliamo ripartire questa sera, perché Mats Lewan, giornalista svedese che sta seguendo da vicino questa vicenda per conto di Niteknik, è stato a Bologna il 28 ottobre. Sentite che cosa ci dice di come è andata. Questa volta c'è stato un test un po' diverso rispetto a tutti gli altri, nel senso che non ho invitati, diciamo, stampa e altri, eravamo praticamente non presenti al test, eravamo in un locale a fianco e c'era questo cliente anonimo che ha gestito tutto il test, ha verificato tutto, controllato tutto, e noi altri abbiamo potuto entrare pochi minuti per vedere un po' dall'esterno che c'era qualcosa che andava avanti. Quindi dal punto di vista, diciamo, della querel, funziona o non funziona, questo test non dà nessun tipo di contributo? Si basa tutto sulla diciamo, la fiducia del report che ha emesso il rappresentante del cliente la sera stessa. Che è un signore, ricordiamolo. Sì, si chiama Domenico Fioravanti, che è colonnello del Genio. Ecco, questo fa pensare che il cliente fosse un cliente militare. Si può dare niente veramente verificato. Okay. Un'altra roba che è successa è stata la riemersione della Defkalion, l'ex socio greco di Rossi, con cui c'era stata una rottura, come dire, definitiva, che è rispuntato fuori e annuncia di essere pronto a produrre su scala industriale Hyperion, che era appunto l'oggetto nato dalla collaborazione con Rossi. E questa è un'altra novità. Esatto. Allora, la Defkalion aveva già a giugno annunciato un prodotto con tutti, diciamo, la tecnologia periferica intorno al core technology di Rossi. Quello che è uscito fuori adesso è più o meno lo stesso prodotto, però la differenza è che loro adesso dicono di avere loro stessi sviluppato un'alternativa al core technology di Rossi. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Non hanno presentato nessuna prova, nessuna documentazione, nessuna testimonianza di qualsiasi tipo che abbiano veramente questa tecnologia. Ecco, perché tu tra l'altro hai parlato proprio con, diciamo, il rappresentante degli investitori. Sì, questo personaggio che si chiama Alexandros Xantoulis mi ha chiamato ad agosto, poco dopo che Rossi ha unilateralmente terminato il contratto con la Defkalion, e mi ha spiegato varie cose. Sembrava un po' incerto come andare avanti in questa situazione, mi chiedeva delle informazioni, poi diceva anche che loro avevano informazioni complete per poter riprodurre la tecnologia di Rossi, però che dicevano anche che non volevano fare questo tipo di lavoro, volevano in quel caso mettersi d'accordo con Rossi o sviluppare qualcosa loro. Siccome nessuno ha verificato che hanno questa tecnologia, non sappiamo se ce l'hanno, e se ce l'hanno non sappiamo se l'hanno sviluppato loro o se l'hanno copiato. È tutto incerto. Dunque, Francesco Celani, fisico esperto di questa materia, che sentiremo anche domani sera, ha chiesto recentemente proprio a Defcalion di testare l'apparato, ricevendo un no. La stessa richiesta pochi giorni prima l'aveva fatta allo stesso Rossi. Addirittura questa richiesta aveva ricevuto un patrocinio d'eccezione, quello del Nobel per la fisica Brian Josephson, ma Rossi ancora una volta ha rifiutato. Sembra quindi del tutto indisponibile a far testare la propria apparecchiatura. Rossi resta però convinto ormai di essere vicino a produrre industrialmente l'ICAT, e lui stesso ci spiega che qualche speranza c'è anche per l'Italia. Sentite. Il baricentro delle trattative sono sicuramente gli Stati Uniti. Sicuramente si svilupperà in Italia un lavoro di ricerca e sviluppo, ma abbiamo avuto dei contatti, oserei dire, molto interessanti in Italia, in industria. E quindi io credo che riusciremo a fare in modo che si riesca a produrre dei posti di lavoro per questa cosa qua. Dunque, adesso quali saranno i prossimi passi? Che cosa succederà da qui in avanti? Il futuro a breve termine io lo distinguerei in due fasi. Prima fase, entro un anno, capacità di produrre elettricità, cioè di sfruttare l'energia termica in modo tale da poter produrre elettricità. Industrialmente o capacità? Industrialmente. Quindi tra un anno potrebbero essere sul mercato le prime applicazioni? Ma molto prima. Per quanto riguarda l'impianto domestico? Per produrre l'impianto domestico ci sono due ostacoli. Uno è di tipo autorizzazione. Infatti noi riteniamo che, se sarà possibile, come io spero, produrre un'apparecchiatura in grado di essere utilizzata per utilizzi domestici, questo richiederà una procedura che non durerà meno di 2 anni. Parliamo un attimo, le chiedo invece, dell'Università di Bologna, del contratto che avete stipulato insieme per la ricerca. Io quello che voglio veramente capire è, a questo punto, se i risultati della ricerca saranno risultati pubblici, e le chiedo se la ricerca includerà l'analisi del fenomeno fisico, e quindi non potrà essere una ricerca a scatola chiusa, ma i ricercatori dell'Università di Bologna dovrebbero poter mettere le mani in pasta, come si suol dire. No, guardi, no. No. Dunque, innanzitutto il contratto ritengo che verrà definito nel mese di gennaio. Tutte le parti concernenti il cosiddetto segreto industriale, finché c'è uno status di patent pending, non verranno rese oggetto di conoscenza nei confronti di nessuno. Bene, questa sera ci fermiamo qui, ma domani torniamo sulle reazioni nucleari a bassa energia. Abbiamo un po' di novità da raccontarvi, c'entrano anche la NASA e qualche ricerca rimasta segreta. Ne parliamo domani sera.